Friuli nel mondo, 260esima trasmissione dedicata agli emigrati. Cianze su Nadis dal Friuli. Questa volta si presenta a voi, nel solito incontro mensile, un complesso veramente caratteristico ed originale. Originale perché riteniamo sia l'unico nella nostra regione i cui componenti provengano dalla stessa famiglia. Si tratta dei fratelli Di Leno, dell'industria e ridente cittadina di Maiano, i quali, si può ben affermare, hanno un culto profondo per l'arte in generale, poiché non si esprime soltanto nel campo della musica con il loro quartetto vocale, bensì anche in quello della fotografia e della pittura. Del quartetto Di Leno vi sarà presentata, amici emigrati, una sequenza di motivi a voi noti e taluni certamente nuovi, con l'apporto efficace dei cantori del Friuli del compianto e mai dimenticato Luigi Garzoni, motivi che saranno intercalati da esecuzioni strumentali del complesso tipico friulano del maestro Degano. Ascoltate allora nell'ordine Tiare lontane, Nininske i voi, Nostalgie di Udin e Quadriglia friulana. Spiare dude, tal sabalo, maestre cittadine, poi adesso di un plan, e viene piccini. Ci sia la unica salvezza. E concludiamo con una visione di Iglesias Utis di montagne. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.